Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti all'appuntamento quotidiano con l'innovazione di Radio 24. Il 45% delle morti naturali, 190 miliardi di costi sanitari, sono numeri relativi alle malattie cardiocircolatorie in Europa. Eppure si ritiene che l'80% di queste patologie possa essere prevenuto. Per riuscirci però è necessario sviluppare dei nuovi strumenti diagnostici molto più sofisticati degli attuali. Ebbene, il progetto eHeart, che mira a realizzare un simulatore matematico del cuore estremamente raffinato, finanziato con 2.350.000 euro dal programma europeo Horizon 2020, ha proprio questo obiettivo. Ad aggiudicarsi questo grant è stato uno dei più poliedrici matematici del mondo, Alfio Quarteroni, che da alcuni anni è in forza al Politecnico di Losanna, dove dirige la cattedra di modellistica matematica e calcolo scientifico, ed è lì che andiamo per incontrarlo. Buonasera Quarteroni. Buonasera. Allora, senta, un cuore virtuale, voi addirittura parlate di un microscopio virtuale. Che cos'è più precisamente che metterete a punto? Ma è un sistema molto complesso di equazioni matematiche in realtà, che hanno l'ambizione di descrivere nei micro dettagli il comportamento, la fisiologia, ma anche la patologia di un cuore umano. L'equazione del cuore sembra il titolo di un film romantico. Beh, un po' lo è, nel senso che anche, come dire, le emozioni danno luogo a comportamenti cardiaci che a volte sono piuttosto, come dire, non usuali. Quello che vogliamo cercare di fare effettivamente è rappresentare questa realtà molto complessa e affascinante, con equazioni che descrivono poi dei principi fisici fondamentali. Ecco, proviamo a dare un'idea della profondità a cui arriverete e anche della complessità di questa simulazione, che è impressionante. Ma per farsi un'idea dobbiamo immaginare che avremo diciamo diverse centinaia di milioni di equazioni che descrivono quindi in definitiva il comportamento dei minimi dettagli. Avremo centinaia di milioni di informazioni sulle velocità, le pressioni, gli sforzi nel sistema cardiaco, e questo grazie alla risoluzione, diciamo, di equazioni con potenti supercalcolatori. Tenga conto che per avere ad esempio la simulazione di un singolo battito cardiaco, quindi un solo secondo fisico, serve circa un giorno di tempo dedicato sul più grande calcolatore in Europa, un calcolatore che è capace di effettuare a centinaia di centinaia di miliardi di operazioni in un singolo secondo. E questo perché voi andrete a simulare addirittura il comportamento dei singoli filamenti di proteine muscolari, arriverete a un livello cellulare sostanzialmente di simulazione come entità più piccola più o meno che simulerete. Questa è l'ambizione, peraltro è necessario se vogliamo avere poi dei risultati molto accurati, cioè il nostro cuore batte ogni istante perché si sviluppa ad ogni istante un impulso elettrico, si origina un impulso elettrico che si propaga nell'intero miocardio, che è il muscolo cardiaco. Questo impulso elettrico va ad attivare, diciamo, il rilascio di ioni di calcio nelle singole cellule. Questo poi in definitiva porta all'allungamento o alla contrazione delle cellule e quindi al battito cardiaco. Quindi dice, se non simuliamo questo aspetto rischiamo di perderci via un aspetto fondamentale poi per quelli che sono gli obiettivi del progetto, che appunto quali sono le applicazioni. Beh, noi vorremmo avere questo, diciamo, simulatore virtuale, che in realtà è un simulatore universale, è un microscopio che permette di capire tantissime cose e permette in particolare di ridescrivere il comportamento fisiologico di un cuore sano, ma anche di un cuore malato. Certo. Un cuore malato, per esempio, nel caso ci sono delle fibrillazioni atriali che sono estremamente critiche e pericolose, nel caso di infarti, nel caso di occlusione delle coronarie o addirittura nel caso in cui si voglia intervenire a operare un cuore che è affetto da patologie congenite, per esempio da malformazioni già nella diciamo. Ecco, tutte queste operazioni potranno essere simulate grazie a questo simulatore prima di essere effettuate fisicamente, no? Così magari da prevenire problemi o cose di questo tipo. Se ho capito bene, potrete anche simulare in una certa misura, per esempio, anche l'effetto di farmaci. Sì, il modello matematico è capace di descrivere il comportamento meccanico, elettrico e anche fluido, e quindi in particolare nel caso di somministrazione di farmaci capire come la concentrazione del farmaco si va a distribuire nel miocardio, ad esempio, oppure all'interno del ventricolo. Senta, ma è possibile che addirittura un giorno, come dire, io vada da mio medico, questo mi faccia qualche tipo di analisi, magari anche una risonanza magnetica, qualcosa che appunto descrive in modo molto dettagliato il mio cuore, questi dati vengano dati in pasto alla vostra simulazione e mi dicano, guardi, lei rischia l'infarto così, oppure stia attento a questo. È possibile uno scenario del genere? Diciamo, questa è l'ambizione della medicina personalizzata, no? Patient specific, come si dice. Sì, è nella logica delle cose, naturalmente l'orizzonte temporale si riposizionerà un pochino più avanti, ma è assolutamente possibile, nel senso che il modello universale acquisisce i dati del singolo paziente, li assorbe e fornisce delle informazioni anche di tipo predittivo. Grazie Alfio Quarteroni, buon lavoro. Grazie. È tutto anche per questa sera, l'appuntamento con l'innovazione torna lunedì. Da Maurizio Melis, buona serata, buon fine settimana.